vincere e dominare la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende la gaina. E tu puoi spingere, na na na na na na na. Puoi spingere, na na na na na na na. La mia medicina. Mi trovi sul top della montagna, Courchevel, che bevo champagne. Mi ballo gli euro, faccio centro, voglio il pacinco, che premio tengo. Sopra le strade innevate, classeggio integrale. Tequila patron giù come l'acqua minerale. Parto lontano da quelle vipere, sotto fungati mi sento libero. Sto solamente provando a vivere, vivere, vivere. Finiamo con la vodka, iniziamo col vino nero. Voglio passare a trovarmi in hotel. Spingo sempre, se no te spingo te. Spingere e far ballare la festa. Vuoi vincere e dominare la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende la gaina. E tu puoi spingere. Da loca, questa sera noi spingiamo, ne varrà la pena. Rum e coca dentro una balera e vedo River Bock nella bombonera. Siamo nelle Vogue, che beviamo belle poc. Noi spingiamo come dentro al pogo di una festa hardcore. Spingere e far ballare la fresca. Puoi vincere e dominare la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende.